Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Beh, che dire, ben ritrovati, è con tantissimo piacere che ritorno ai microfoni di Radio 24. Lo faccio con un programma diverso, innovativo, che ci porterà a conoscere e a scoprire l'Europa. Non l'Europa delle leggi, dei politici, delle normative, ma l'Europa delle storie e delle persone. Lo faremo insieme ad Euronet, un importante network di radio europee, e cercheremo insomma di trasmettere una cultura europea moderna. E lo faremo a nostro modo, e cioè con curiosità, con leggerezza e, perché no, anche con un tocco di ironia. E visto che si parla di ironia, ascoltate un po' questa canzone. E questa è stata la colonna sonora che ha accompagnato la campagna elettorale di Jon Gnarr, un personaggio incredibile che ha appena vinto le elezioni comunali a Reykjavik. Siamo in Islanda, quindi ai confini dell'Europa, e questo comico si è candidato, è stato votato, ha vinto ed è in lista per diventare sindaco. Ne hanno parlato tutti i quotidiani, noi volevamo capire meglio quello che è successo e quindi abbiamo convocato un suo elettore. Lui si chiama Steini, è un organista islandese che vive nei pressi di Reykjavik, è sposato con una flautista calabrese e quindi parla italiano, anche perché ha vissuto a Roma per molti anni. Ciao Steini! Ciao ciao! Lascia a te il compito di dire il tuo cognome, perché per me è impronunciabile. Sì, è Thoralsson. Perfetto, benissimo. Steini, allora, cos'è successo in Islanda? Chi è questo Jon Gnarr? Jon Gnarr è un comico un po' diverso, diciamo, perché è un comico che anche sa pensare e parlare molto intelligentemente, e ha iniziato questo corso come un scherzo, credo, tutti credevano così, però pian pianino è diventato un po' più grande e alla fine ha vinto le elezioni. E quindi ve lo troverete come sindaco? Sì, appena adesso hanno annunciato che è diventato sindaco di Reykjavik. Ma tu l'hai votato? Solo pochi minuti fa. Perfetto. Tu l'hai votato? Io l'ho votato, sì, sì. E cos'è stato? Un voto di protesta per voi? Sì, noi, come tutti sanno forse, abbiamo avuto un po' di problemi con le banche, con la politica qui in Islanda. E adesso i gente normali sono stanchi della politica, diciamo, corrotta. Allora questo viene e dice: ah, io, va bene, faccio quello, forse quello che fanno gli altri, però almeno dico che lo faccio. Però gli altri dicono bugie e dopo non fanno niente. Io dico, metterò i miei amici a tutti i posti e faccio finta di fare altro. Ma la gente piace l'onestà. La bugia, tutti sono stanchi delle bugie. Ecco, ma nella sua campagna elettorale ha fatto proposte assurde, erano provocazioni o insomma ci sono anche contenuti in questa campagna? Sì, no, diciamo contenuti sono ben pochi, perché credo che all'inizio non pensavo di arrivare fino alla fine, però sulla lista ci sono gente che tutti conoscono, sono artisti, sono musicisti e gente che sono conosciuti. Era una votazione di confronto, di rivolta contro il sistema esistente. Tutti gente sono stanchi delle bugie, delle proposte finte, gente finte. E loro dicono: ah, almeno facciamo le cose, però facciamo le cose divertenti. Ma e come comico è valido, fa ridere, sì, sì, è molto famoso. Fa ridere. È un po', sì, fa ridere, però non è uno che dice barzellette ogni minuto del giorno. È uno che oppure programmi televisivi ultimamente che sono diventati molto popolari qui in Islanda. Ha preso più che altro voti dei giovani, cioè quarantenni e sotto quarantenni. Ma tu conosci un po' l'esperienza di Beppe Grillo in Italia, una cosa simile? Sì, io sono un grande fan di Beppe Grillo. Ed è un percorso simile? Hai trovato delle assonanze? Sì, Beppe Grillo è un po' più aggressivo. Beppe Grillo per me è molto divertente, però è molto aggressivo, forse non piace a tutti. Jon Gnar non è così aggressivo, quello che dicono è come nella canzone prima, cioè diamo un po' di vacanza a questi idioti, no? Okay. E quella è l'idea, no? Diamo vacanza a questa gente che ci hanno messo nei problemi, che con il crollo delle banche tutti dicono è più che altro è colpa della politica, dei politici che non hanno fatto niente per fermare le cose. Insomma, allora, è un personaggio molto vulcanico, anche se la parola è vulcanica, forse vulcanico non è la più adatta con l'Islanda. Come sta il vulcano? L'avete sedato? È calmo, però io in questo momento guardo fuori la finestra e non vedo quasi la città accanto perché c'è un po' di cenere che è venuto con il vento, però è una cosa molto breve, non durerà tanto, però il vulcano ha smesso. Adesso abbiamo avuto 20 gradi di temperatura ultimamente, cioè nel mio giardino sta fiorendo un albero di mela, abbiamo avuto cose strane, però il paese non c'è, il vulcano non era mai pericoloso per noi tanto, però erano le ceneri che erano un po' cattive, però adesso ha smesso, sì. Stene, adesso è tutto tranquillo. Prima di salutarci, un po' di affari tuoi, so che sei un tifosissimo della Roma. Sì, io sono tifosissimo della Roma, Forza Roma, prossimo anno faremo bene. Ok, quest'anno insomma vi siete accontentati. Sto per arrivare in Italia pure. A fare cosa? Lunedì vengo con 40 persone qua da Islanda, il mio coro, stiamo andando alla Lamezia Terme, Sud Calabria, a cantare, a fare un viaggetto. Porta delle mele dall'Islanda, può essere una bella sorpresa. Porterò le mele, le banane, sì. Siamo il paese che cresce più banane in Europa. Fantastico. Islanda, sapete questo perché abbiamo le serre. Grazie davvero Steni, magari ci risentiamo poi nelle prossime settimane, va bene, perché sì, ci piace dare voce alle varie nazioni. Buon sabato e grazie ancora, ciao. Altrettanto. Europostit. L'Islanda, laboratorio di sperimentazioni politiche ma anche musicali. E dopo il comico che diventa sindaco, ecco il musicista che abbandona la lingua madre per trasformarsi in artista internazionale. Questo infatti era Go Do, il singolo di Jónsi, cantante dei Siguros, la rock band islandese diventata famosa in tutto il mondo grazie alle melodie nordiche e ai testi spesso incomprensibili. Jónsi ha pubblicato di recente il suo primo disco da solista, scegliendo di cantare per la prima volta in inglese e non più in islandese. Il cantante sarà in concerto mercoledì a Milano, il 21 luglio a Roma e il 22 a Ferrara. L'altra Europa. L'altra Europa at radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Se anche voi volete segnalarci altre Europe, oppure ci trovate nelle nostre pagine in Facebook. L'altra Europa. 5 giugno 2010, la giornata mondiale dell'ambiente, e ovviamente anche in Europa si parla di ambiente, abbiamo quindi scelto di toccare l'argomento. Molte specie, un pianeta, un futuro, questo è lo slogan scelto quest'anno. Non parleremo di leggi, non parleremo di protocolli, abbiamo scelto di così darvi qualche spunto, qualche visione di quello che sta succedendo in Europa, alcune iniziative significative, e per avere appunto queste iniziative abbiamo convocato chi a Radio 24 si occupa di ambiente. Lei è la conduttrice del programma Respiro, che va in onda tutte le domeniche alle 14. Do il benvenuto a Laura Bettini. Ciao Laura. Grazie a voi, ben ritrovati. Buon sabato, e so che ti disturbiamo mentre fai giardinaggio, vero? Eh sì, è vero, perché non si può sempre predicare bene e razzolare male, no? Quindi qualcosa bisogna fare sul serio. Quindi io ho cominciato un po' con i pannoloni della bambina più piccola e adesso mi sono data alla coltivazione dei piccoli pomodorini, fragoline di bosco, cose di questo genere. Fantastico. Semplici ma divertenti. Ma hai il pollice verde? Sì, ho il pollice abbastanza verde ma molto poco tempo e quindi purtroppo ogni tanto fallisco. Sì, giusto, giusto, diamo la colpa al tempo, mi sembra un'ottima scusa. Allora Laura, tu da anni insomma ti occupi di ambiente, hai avuto la possibilità di sfiorare, di toccare tantissime iniziative anche in giro per l'Europa. Cosa hai scelto per noi? Ho scelto di cominciare da una mostra che c'è stata a Milano e che quindi forse qualcuno ha potuto vedere, ma che vale la pena di rilanciare un po' in tutta Italia, perché poi magari ci saranno altre occasioni di vederla. Questa mostra si chiama Green Life e tra i suoi sponsor ha Legambiente, quindi insomma già dice tutto su questo che è quello che è l'iniziativa. Certo. Presenta soluzioni architettoniche e urbanistiche adottate in varie città del mondo. Qui si parla proprio di mondo. Se vogliamo restringere il campo all'Europa, a me ha colpito in modo particolare un'esperienza fatta a Vienna, si chiama Bike City. È un complesso edilizio di un centinaio di appartamenti concepito proprio per persone che rifiutano e mettono nero su bianco il loro impegno a non avere un'auto e quindi a non portarla mai lì. Cioè lì non ci sono possibilità. Fantastico. Di portare un'automobile, non ci sono garage, non ci sono spazi per posteggiare, c'è solo spazio per le biciclette e tutto quello che era un tempo dedicato alle automobili e che è normalmente dedicato alle automobili nelle nostre città è stato trasformato in spazi per il gioco, spazi per il benessere, quindi c'è la sauna, lo spazio relax, aree verdi particolari, insomma tutto questo ha avuto un successo tale che le richieste sono state superiori al numero di appartamenti e quindi Vienna adesso in progetto un'altra Bike City e poi ce ne saranno probabilmente altre, mi pare a Dublino, sempre sullo stesso stile, gente che mette nero su bianco l'impegno a non avere un'auto. Insomma quindi è possibile e la cosa bella è anche la ricaduta, cioè, tutto ciò può portare benessere, questi portare sicuramente stanno meglio, benessere. Non è tutto un sacrificio perché non puoi usare l'auto. No, può portare molto benessere, tanto benessere fisico, benessere dell'aria ovviamente, ma oltretutto qui c'è anche un benessere che si traduce in sauna, bagno turco, cose che insomma tutti noi vorremmo avere nel nostro condominio e che di solito non ci sono perché ci sono i garage. Assolutamente. Seconda notizia ci riguarda un po' più da vicino, riguarda in particolare la città di Firenze ed altre alcune esperienze in Italia, ma esperienze che sono cofinanziate dalla Commissione Europea e qui c'è il trade union, no? Con sì. L'Europa. Si tratta di una serie di famiglie che anche qui nero su bianco hanno preso l'impegno con il Comune di Firenze e delle altre città italiane coinvolte nel progetto di ridurre le emissioni della loro famiglia. Ci sono state delle riunioni plenarie di tutti coloro che hanno aderito al progetto, hanno deciso alcuni obiettivi, ad esempio a Firenze non utilizzare l'auto, se non ovviamente per chi magari è commesso viaggiatore la deve utilizzare, ridurre il riscaldamento in casa, l'utilizzo di luce e così via. Hanno fatto piccoli cambiamenti, piccole modifiche nelle loro abitazioni. Alla fine dell'anno, sono già passati 6 mesi, faranno il bilancio finale, ma quello di medio termine, diciamo di midterm, è andato benissimo e insomma risparmi anche in bolletta consistenti di alcune centinaia di euro per alcuni di loro, quelli che hanno fatto interventi più radicali in casa. Insomma è bello perché bisogna mettersi in gioco, no? Un po' anche questo il filo conduttore di queste due iniziative, cioè sono persone che si impegnano a fare, non aspettano che siano altri a cambiare le cose. Esattamente, tra l'altro questi hanno anche l'impegno di controllare quello che fa il loro comune di appartenenza. Nel caso di Firenze, il comune di Firenze aveva detto che avrebbe fatto alcune modifiche agli impianti di riscaldamento degli edifici del comune stesso in giro per la città. Ebbene, queste famiglie, gli aderenti al progetto, stanno controllando edificio per edificio se davvero sono state fatte queste modifiche. Ambiente d'Europa, hai una terza dritta da darci? Una terza dritta potrebbe essere quella della ricerca, è importante, l'Italia si dice sempre che quanta soldi per la ricerca ne ha pochi, però ha tanti inventori. Tra gli inventori c'è da segnalare sicuramente la Novamont, che è un'azienda nata dalla Montedison, ma che si è specializzata nel filone ecosostenibile ed è diventata insuperabile nella produzione di bioplastiche. Sono loro, ad esempio, che hanno inventato questo materiale che si chiama Mater B, e di cui sono fatti molti sacchetti oggi, che deriva dal mais e che è assolutamente biodegradabile. Ci si fa un po' di tutto, sacchetti di plastica, pannoloni, per tornare al discorso di prima, mm-hmm. che ho per la bambina sono fatti di questo materiale, ma ci si fanno anche bicchieri, posate, forchette, tutto ciò che normalmente è fatto di plastica assai poco ecocompatibile, ecco, si può fare con questo materiale Mater B. E per questa invenzione la Novamont e l'amministratore delegato Katia Bastioli hanno ricevuto un premio nel 2007, inventore europeo dell'anno, un premio dato dal commissario dell'Unione Europea, dal presidente dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, eccetera, eccetera. Quindi una selezione tra tutti i cervelli europei ha tirato fuori un'azienda italiana. Grande. Anche questo succede in Europa. Laura, l'appuntamento con te a domani alle 14 con Respiro, di cosa si parlerà? Domani parliamo un po' degli italiani e dei detersivi, che rapporto hanno con i detersivi, ne usano troppi, troppo pochi, seguono le istruzioni e soprattutto, pare siamo scarsissimi su questo punto, dove li conserviamo e come. Perfetto. Può essere pericoloso conservarli male e quindi attenzione. Hai mai portato le fragoline in redazione? No, ce le mangiamo tutte a casa. Grazie davvero Laura, ciao e buon sabato. Grazie a voi, buon proseguimento. Europost-it. A proposito di animali, a Londra è in corso una vera e propria invasione di cuccioli di elefante. Nulla da temere però, sono 250 variopinte sculture firmate da grandi stilisti che popolano le vie della City. Il 3 luglio saranno messi all'asta e il ricavato andrà in favore degli elefanti veri, quelli asiatici. Per scoprire qualcosa di più su questa iniziativa c'è il sito elephantfamily.org. L'altra Europa. Continuiamo a parlare di verde ed Europa e lo facciamo con una scozzese che ha avuto un'idea geniale e questa idea l'ha portata qui in Italia. Si chiama Judith Wade, è l'amministratrice delegata di Grandi Giardini Italiane. La sua intuizione è stata proprio quella di riunire in un circuito turistico i proprietari dei grandi giardini. Ciao Judith, buon sabato e benvenuta all'altra Europa. Salve, buona giornata. Ma scusa, qual è l'idea di fondo? Io apro il mio giardino dei turisti che vengono a visitarlo? Ma sarebbe quello di creare un sistema virtuoso economico per autofinanziare un settore dei beni culturali italiani, ovvero i musei all'aria aperta, i grandi giardini italiani. Quindi sono andata a visitare circa 76 proprietari di giardini straordinari e gli ho chiesto di far parte di questo network per immettersi nel famoso mercato verde, il horticultural tourism. Mm-hmm. E chi sono gli interessati a questo mercato? Gli italiani stessi o sono prevalentemente stranieri? Nel 2009 abbiamo un dato molto importante, nell'anno della crisi economica peggiore forse della nostra vita, Grandi Giardini Italiani ha registrato 7.480.000 visitatori, con un aumento del 27% di visitatori italiani. Ma sono appassionati di natura e di ambiente o è gente che vuole anche andare a curiosare nei giardini altrui? Ma direi la generazione dei figli dei fiori, cioè questa è la prima vera generazione di giovani che nasce con un interesse per i temi vicino al paesaggio, all'ambiente, e hanno un vero interesse a come gestiamo questa pianeta e quindi sono attratti anche a visitare i giardini. E in Scozia non ci sono giardini di questo tipo? Perché sei venuto a farlo in Italia? Meno male, mi sono trovato un bellissimo lavoro, diciamo, è anche un'impresa al femminile, completamente autofinanziato, non percepisce aiuti governativi, quindi è anche un esempio di come si può fare impresa nel mondo del verde e nel mondo dei beni culturali. Sono decine di giardini, ce ne puoi descrivere uno, quello che più ti piace, quello che ti sembra più emblematico? Ai, mi metti in difficoltà, adesso mi faccio nemica di 76 giardini. Diciamo che quello che mi piace in particolare sono quei giardini che hanno voluto aumentare il loro livello di manutenzione, cioè quello di dire: io avevo un bel giardino per me, mio papà, magari sono stato fortunato, l'ho pure ereditato, però adesso che lo apro al pubblico faccio qualche cosa in più, cioè creo magari un bel ristorantino, un agriturismo, faccio percorsi didattici per i giovani, ecco, quel tipo di giardino mi piace. Allora un buon esempio potrebbe essere il Parco Sigurtà, Valeggio sul Mincio, due figli, due ragazzi che l'hanno ereditato da poco, Giuseppe e Magda Sigurtà, che proprio come imprenditori si dedicano la mattina e la sera a migliorare il loro giardino, migliorare l'offerta turistica, e hanno piantato, diciamo, fiori, alberi, di tutto, insomma, continuano a investire in questo giardino. Questo è un esempio. Un altro esempio molto bello è quello ovviamente della Mortella, che è sull'isola di Ischia, è diventato in poco più di 20 anni uno dei giardini botanici più importanti in Europa. Abbiamo appena perso purtroppo Lady Susanna Walton 2 mesi fa, ma è un giardino subtropicale, di piante subtropicali sull'isola di Ischia, e quindi è un polo d'eccellenza al sud Italia. Ecco, ma quando torni in Scozia vai a visitare qualche giardino? Sotto la pioggia, con un freddo cane, mi rimpiango l'Italia. E c'è anche un sito per chi volesse avere qualche informazione? C'è, senz'altro, il nostro sito è www.grandigiardini.it, ma siamo anche su YouTube con un broadcasting dedicato esclusivamente ai nostri giardini, cliccando o giardini o grandi giardini italiani. Fantastico, buon sabato, grazie Judith. A presto Federico, grazie. Questa è l'Altra Europa, aspettiamo anche le vostre mail e le vostre segnalazioni a l'altraeuropa@radio24.it. L'Altra Europa. Ancora l'Altra Europa, continua questo nostro primo viaggio per scoprire l'Europa. Ci piace, ci piacerà andare a toccare quelli che sono punti di contatto, anche differenze tra le varie nazioni, e lo faremo da tante sfaccettature diverse. Oggi partiamo parlando di mamme, parlando dell'essere mamma. Infatti è appena uscita una ricerca di Save the Children, associazione umanitaria presente in 27 paesi, una ricerca sulla qualità dell'essere mamma e dell'essere figli, appunto, in Europa. Beh, in cima a questa particolare classifica c'è la Norvegia, mentre l'Italia, pensate, al 18° posto. Perché? Perché le mamme norvegesi sono le più fortunate? Perché è più facile forse essere mamma in Norvegia? Ce lo siamo chieste, per avere una risposta abbiamo convocato Elisabeth Meyer, direttore di Innovation Norway, ufficio norvegese per il commercio e il turismo. Vive in Italia da 10 anni, quindi è stata mamma sia in Norvegia che in Italia, perché appunto ha una figlia. Ciao Elisabeth, buon sabato. Buongiorno. Buongiorno a te, ciao. Allora, è vero, è più facile essere mamma in Norvegia? Ma sicuramente uno degli aspetti che ha portato la Norvegia in cima a questa classifica sono sicuramente le politiche anche relative alla maternità, che sono fra quelli più generosi al mondo. E quindi, insomma, ci sono degli aiuti concreti, aiuti reali? C'è la possibilità di rimanere a casa per fino a 57 settimane con l'80% dello stipendio, che sicuramente economicamente è un grosso aiuto. C'è comunque un altro aspetto molto interessante di queste politiche, e quello è che 10 di queste settimane sono esclusivamente riservate per il padre. Ah, quindi il padre c'è, nel senso che sia dal punto di vista culturale, credo, oltre alla possibilità di farlo, però la figura paterna ha un apporto fondamentale. Sì, perché questi 2 mesi e mezzo hanno comunque scoperto, tramite degli studi specifici, hanno scoperto che hanno anche degli effetti a lungo termine, perché crea comunque un forte incentivo per il padre di essere più presente, perché se non usufruito queste settimane da padre, la famiglia ne perde il diritto. E si vede che essendo più a casa si crea un legame più stretto fra il padre e il figlio, per cui il figlio vede anche il padre più come una figura di cura, e forse si gira non così automaticamente solo alla mamma per avere aiuti. In Italia uno dei problemi di cui si lamentano di più giustamente le famiglie è legato ai posti negli asili. Anche in Norvegia è così? Ma ci sono problemi ci sono zone dove non ci sono posti per tutti, però c'è comunque anche un altro aiuto, e quello è che i bambini che non hanno un posto all'asilo nido, i bambini nella fascia età da 1 a 3 anni, le famiglie ricevono circa 350 euro al mese per acquistarsi questo aiuto altrove. Ma sono così diverse le mamme italiane dalle mamme norvegesi? Ma io credo anche, e questo fatto appunto che il padre viene portato sul palcoscenico presto, fa comunque sì che si sviluppa una maggiore collaborazione fra i due genitori, perché il padre scopre che stare a casa con il figlio piccolo effettivamente è un lavoro a tempo pieno e magari ha più solidarietà con la mamma. Dall'altra parte la mamma scopre anche che il papà ce la può fare, per cui dà anche più spazio al papà. Credo comunque che bisogna anche dare delle priorità, nel senso che avere figli è impegnativo, avere anche una carriera, un lavoro a tempo pieno è molto impegnativo. È chiaro che bisogna dare priorità e forse tenere la casa in ordine sempre, avere una cena a tre portate ogni sera, lì le donne norvegesi danno forse più priorità ai figli e alla carriera e meno all'ordine in casa, meno a questo aspetto gastronomico, ecco. Ho capito, insomma, sono un po' troppo casalinghe, diciamo così, secondo te, le mamme italiane. Ma io vedo comunque fra le mie amiche italiane, ogni tanto mi preoccupo perché dico prima o poi questa qua schiatta, perché vedo comunque delle pretese molto alte a se stesse di tenere casa in ordine, di cucinare, di cucire figli. Poi in Norvegia c'è anche più spazio, più sicurezza, i bambini magari vanno prima all'età più giovane fuori a giocare da sole nel giardino, per cui non c'è bisogno di organizzare una gita al parco per farli prendere un po' di aria fresca. Ok, ti senti mamma italiana però in qualcosa? Ma io sicuramente con la mia cultura, come background, sono una mamma norvegese, ma dopo 10 anni in Italia sono sicuramente ho preso anche un pochettino della mamma italiana. Ok, quindi anche tu ogni tanto metti in ordine un po' troppo la casa, è questo, vero, che ci stai confessando? Ma la mia casa più che altro sembra che ci sia passato un tornado ogni tanto, però io con questo ci convivo. Ci piace. Grazie davvero, Elisabeth, per averci portato la tua testimonianza. Buon sabato. Piacere mio, buon sabato anche a te. Europost-it. Come sarebbe la tua vita se fossi povero? Come pensi che si potrebbe risolvere un problema enorme come quello della povertà nel mondo? Sono queste le domande e il tema del concorso europeo per filmmaker Poverty in Europe. Per partecipare basta avere tra i 15 e i 30 anni, essere cittadini europei e soprattutto realizzare un video da un minuto nel quale immaginarsi in che modo cambierebbe la propria vita se si vivesse con un reddito molto basso. La scadenza per presentare i video è il 15 luglio. Tutte le informazioni sono sul sito appcompetition.eu. L'altra Europa. Abbiamo detto che vogliamo tentare di trasmettere una nuova cultura europea e lo vogliamo fare anche andando a scoprire esperienze validissime come quella di Café Babel, che è il primo magazine europeo d'attualità in 6 lingue, un'esperienza che porta a superare le frontiere linguistiche e nazionale. È un media europeo nuovissimo nel suo genere e con noi c'è Roberto Lapia, che è il responsabile della redazione italiana di Café Babel. Ciao Roberto! Buonasera, ciao, buonasera a tutti. Tu ti trovi a Parigi dove c'è la redazione, esatto. Esatto. Mm-hmm. Che cos'è Café Babel? Café Babel è un media europeo che è nato nel 2001 per l'iniziativa di alcuni studenti Erasmus, italiani e francesi. Diciamo che è il primo magazine europeo di attualità, tradotto in 6 lingue, che cerca di dare fornire un punto di vista nuovo su quello che è l'Europa, soprattutto legato alla nuova Eurogenerazione, che sono quindi quei ragazzi che hanno usufruito dell'Erasmus, che si muovono continuamente per l'Europa e che parlano più lingue. E che non hanno voglia di tornare a casa anche, nel senso che... E un che po' non hanno voglia di tornare a casa, spesso, esatto. Tu sei a Parigi da quanto? Io sono a Parigi da 6 mesi. Uh-huh. Prima ero a Nantes, nel nord-ovest della Francia, e prima ancora in Spagna. Fantastico, insomma, questa è la nuova generazione. E prendete articoli, li scrivete o li traducete, gli argomenti toccati variano veramente a 360 gradi, e noi ne abbiamo scelto uno perché giocate anche, e ci ha fatto sorridere, ci piaceva aprire con questo pezzo legato alle traduzioni dei cognomi dei politici. Esatto, è un pezzo che fa parte di una rubrica che si chiama La Torre di Babele, che noi facciamo una volta alla settimana, che pubblichiamo ogni mercoledì, e quindi è una rubrica che cerca praticamente di conoscere delle espressioni differenti tra proverbi e espressioni diverse in varie lingue. Quindi abbiamo deciso di, parlando tra di noi, ci siamo accorti che effettivamente certi cognomi avevano dei significati un po' bizzarri, come per esempio il giocatore del Bayern Monaco, Schweinsteiger. Abbiamo detto come lo tradurremo in italiano, è venuto fuori che Schweinsteiger in tedesco vuol dire una persona che cavalca i maiali, per cui questa idea ci ha fatto sorridere, da lì è nato un articolo che parla un po' di come tradurremo i vari nomi, come per esempio Zapatero, che in italiano vuol dire calzolaio, Schumacher, che vuol dire più o meno la stessa cosa. Oppure abbiamo poi il ministro degli interni italiano Roberto Maroni, che come sappiamo potrebbe essere tradotto facendo riferimento a una parte intima. Sì. Mm-hmm. Oppure abbiamo Helmut Kohl, il cui cognome tradotto in italiano significa cavolo, per cui abbiamo giocato un po' su questi fatti. Come ho detto, è un articolo che quindi rientra in una serie di articoli che giocano un po' tutti su questo, in chiave ironica, su espressioni diverse in 6 lingue diverse. Vi seguiremo, andremo a cercare tra i vostri articoli, appunto, se si continuerà a parlare di attualità, perché gli spunti che potete offrire sono tanti. E quanti siete come italiani coinvolti in questa redazione? Allora, italiani, io sono il responsabile della versione italiana, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda la versione italiana. Poi ho una rete di traduttori e autori volontari, tra virgolette, nel senso che non vengono remunerati, perché si tratta di giornalismo partecipativo, bene specificarlo, e sono circa tra le 200 e le 300 persone, diciamo, tra cui ce ne saranno una cinquantina che sono attive al 100% e le altre che saltuariamente, quando hanno il tempo, per passione, dedicano a noi. Quindi ci si può anche proporre, l'indirizzo per conoscere Caffè Babel è ovviamente caffebabel.com. Ciao Roberto, grazie, buon sabato. Grazie a voi. L'altra Europa. L'altra Europa, insomma, un po' lo stile del programma, iniziate a conoscerlo, ci piace prendere delle notizie e diamo voce ad alcuni protagonisti che dal di dentro possono magari raccontarci il loro punto di vista. Ripartiamo da una classifica, è stata fatta una ricerca dal gruppo francese Hatcher, sono stati intervistati 170.000 imprenditori e la domanda era questa: qual è la città che preferite dove aprire un'impresa? Qual è la città dove secondo voi si lavora meglio? A parte la città che risulta all'ultimo posto è Roma, e la colpa viene data alle infrastrutture, le tre città preferite sono Francoforte, Lisbona e Varsavia. E quindi prendiamo spunto da questa strana classifica per conoscere meglio Varsavia, e lo facciamo con Marek Lenert, corrispondente per Polskie Radio dall'Italia. Ciao Marek. Ciao. Allora, Varsavia ai primi posti, come mai? Ma io non mi pongo questa domanda, per me è quasi ovvio, cioè non è strano che possa andar bene agli imprenditori esteri la capitale del mio paese e poi la mia città di origine, anche se manco da parecchio, ma tutti gli anni ci vado. Perché è una città di quelle che si possono dire giovani, dinamiche, aperte soprattutto a tutte le novità, al mondo. Ci sono giovani che parlano quasi tutte le lingue, siamo computerizzati con tutte le novità. E poi appunto vivo a Roma, quindi vedo questa grande differenza qui, si, vede tanti negozi ormai chiusi, botteghe e altro, comunque spazi inusati, non sfruttati, non dico al massimo, ma quasi per niente. Mm-hmm. Invece a Varsavia, diciamo, tutte le buche possibili sono occupate ormai, costruiscono nuovi palazzi, nuove case, nuovi centri. Quindi per gli uffici va bene, se c'è bisogno si costruiscono dei nuovi, ma l'attività, diciamo, dal basso, i giovani che si danno all'imprenditoria, a qualche cosa autonomo di inventato, ce n'è tanti, per cui appunto dico non sono sorpreso da questo risultato. Insomma, tu conosci i due estremi di fatto, perché vivi a Roma ma conosci bene Varsavia, quindi queste differenze le vivi e le vedi proprio sulla tua pelle. Appunto, io da anni dicevo, anche prima che noi fossimo entrati nell'Unione Europea, ogni tanto dicevo anche a quelli che conoscevano già allora la Polonia, loro stessi concordavano con me che forse ci sarà un posto libero, l'Italia esce e la Polonia entra, perché è quella che adesso guarda. Sei un tifoso, qui sei un tifoso e non sei un arbitro. Ma, e scusa, tu perché non vai a lavorare a Varsavia allora? Io sono corrispondente della radio qui finché c'è l'interesse, per, anche se devo dire il vero, più per la Santa Sede che non per... Ho capito. Italia. Ciao Marek, buon sabato. Marek Lennert, corrispondente per Polski Radio. Europost-it. Può un'opera musicale essere realizzata interamente dagli utenti di Internet? Questa è la sfida di Opera by You, un progetto che arriva dalla lontana Finlandia e che è stato lanciato all'interno dell'Opera Festival di Savonlinna, festival operistico della città finlandese. Il pubblico della rete può contribuire a comporre quest'opera collettiva creando libretto, musiche, disegni. Qualsiasi contributo è ben accetto. Appuntamento all'estate 2012 per vedere in scena questa innovativa produzione. Per chi volesse partecipare, operabyyou.com. L'altra Europa. Si avvia verso la conclusione questa prima puntata dell'Altra Europa e mi piacerebbe chiudere ogni volta con una fotografia, con un autoscatto, chiedendo a uno straniero che vive in Italia di raccontarci come lui ci vede, come lui vede gli italiani. Se siete quindi stranieri, se sapete parlare l'italiano, quindi ci ascoltate e volete scriverci, l'indirizzo è l'altraeuropa@radio24.it. Attraverso la mail potete proporvi. Partiamo dalla Spagna. Oggi lei vive in Italia da più di 10 anni, a 37 anni, abita a Roma, si chiama Mercedes Vela Cossio e fa l'autrice televisiva. Ciao Mercedes! Ciao, buongiorno Federico! Buongiorno a te, buon sabato, grazie intanto per essere qua con noi. Tu esattamente sei in Italia da quanto? 14 anni, Sono arrivata nel 97, un sacco di anni. Ma e ci sei arrivata per caso o l'hai proprio scelta? No, l'ho scelta. Guarda, sono venuta per studiare l'Erasmus 15 anni fa, quindi ho fatto un anno l'Erasmus e come tutte le spagnole che fanno qua l'Erasmus mi sono innamorata di un italiano. Un grande classico. Quindi finito l'Erasmus sono tornata a casa, dopo 6 mesi non ne potevo più e quindi ho detto no, ci vado a provare come va questa storia. Quindi sono arrivata in Italia e così arrivavo per 3 mesi e ci sono rimasta 14 anni. Poi l'amore è finito nel frattempo, ma è rimasta l'Italia, è rimasto almeno quello. L'amore per l'Italia. Ecco, ma quando torni in Spagna, giusto per capire come ci vedi, e ti chiedono i tuoi amici, ma come sono questi italiani? Tu che dici? Guarda, più che chiedermi come sono, mi chiedono conferma della immagine che hanno degli italiani, no? Cioè, nel senso che voi avete un'immagine all'estero, secondo me, molto buona, nel senso che tutti pensano che gli italiani sono molto simpatici, carini, insomma, tutti molto casciaroni, che fanno molto casino, così. E tutti però sono molto incuriositi di cose, a volte molto stupide, della serie, ma è vero che mangiano la pasta tutti i giorni, no? Perché da noi è inconcepibile che uno mangi pasta tutti i giorni. Oppure è vero che le donne non escono mai da sole, da casa? Dico no, ma non è così, non ti preoccupare. Poi che ne so, sono così, mi chiedono, ma è vero che sono così preoccupati sempre per la moda, per le macchine, per i soldi? Sono l'idea un po' di molto modaioli, molto, molto affascinanti e molto belli. Poi c'è il mito dell'uomo italiano che è bellissimo, quindi tutte le donne in Spagna me lo chiedono è vero che sono tutti belli per strada? Io vabbè, insomma, c'è un po' di tutto. Sì, generalizzi. Tu lavori nella televisione italiana e sei autrice di Ballarò. Com'è lavorarci da straniera? Guarda, in realtà credo che ormai mi sono anche un po' abituata, adesso sono un po' italianizzata anche io, anche nel lavoro. All'inizio era molto, molto divertente, molto difficile, per me molto molto difficile, perché fare giornalismo e fare soprattutto, diciamo, attualità politica in questo paese è frenetico, perché veramente non capisci, un casino, succede di tutto, c'è tantissimo movimento, ecco, la politica è proprio assurda, quindi all'inizio facevo una fatica enorme, quindi alcune cose mi sembravano assurde, incomprensibili, però poi con gli anni, insomma, mi sono abituata, e poi non mi fanno mai sentire straniera, anzi se lo dimenticano spesso, quando ogni tanto chiedo ma come si dice questo in italiano, mi guardano tutti come me, che è, invece no, è che non è la mia lingua, insomma. Ci sono differenze fondamentali tra la TV italiana e quella spagnola? Sì, penso di sì, penso che, guarda, in quello spezzo una lancia per il lavoro che faccio io. Io penso che la televisione in Italia sia migliore, sinceramente. Io la televisione spagnola negli ultimi anni la vedo quando vado a casa e purtroppo credo che è un po' superficiale, molto frivola, ormai sono fissati col gossip, la programmazione infantile è sparita, insomma ci sono quasi tutte soltanto serie americane, così. Invece in Italia secondo me c'è una televisione di, cioè non è il mondo perfetto ovviamente, però secondo me la qualità è migliore, sinceramente, credo, sono quasi sicura di quello, anche che ne so, io ad esempio per dirti faccio talk show, faccio attualità e politica in prima serata, che è qualcosa che nel mio paese, in Spagna, sarebbe proprio inconcepibile, cioè alle 9 di sera la gente non si mette a vedere un dibattito politico sulla manovra finanziaria, ecco, questo sono cose che succedono, secondo me una bella partecipazione, ecco, anche da chi sta a casa, insomma, e la televisione in generale secondo me la qualità è migliore, anche noi stiamo imparando, anche un po' gli spagnoli stiamo migliorando, però per adesso ancora perdiamo un po' di colpi. Ecco, sentendo squillare il telefono durante la diretta di Ballarò, hai mai sperato che fosse Zapatero? No, guarda, non credo che queste cose succedano in Spagna, però non succedono, se dico la verità, anche perché secondo me da noi il rapporto fra televisione e politica è troppo serioso, molto istituzionale, serioso, c'è poca politica in televisione, o almeno non come la conoscete qua, quindi no, non penso che lo faccia, che fondamentalmente non l'avrei mai immaginato, certo. Grazie davvero Mercedes, buon lavoro e buon sabato, grazie per essere stata con noi. Grazie. Ciao. L'altra Europa. E finisce qua questa prima puntata dell'Altra Europa. Un grazie ad Alba Chiara Rondelli, che con me ha scritto il programma, ad Anita Panizza in redazione e a Roberto Scaltriti alla parte tecnica. Vi ricordo che la puntata sarà disponibile in podcast dal nostro sito www.radio24.it. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 10 su Radio 24. Ciao!